a piedi miei sperato. Perché cantasti amore, idolo del tuo cuore, vittima cadena. Perché cangiaste amore, vittima cadena, cadena. A piedi miei svelato, perché cangiaste amore, l'idolo del tuo cuore, vittima cadena. L'idolo del tuo cuore, vittima cadena. Il tuo cuore, vittima cadena.